qualche cosa, no? Anche per specchiare, no? Diciamo, fate una giovane chiave la politica, per avere anche un rapporto con i partiti che, con i quali trova difficoltà comunque a riprendere, a riportare avanti. Così. E mi sono trovato un pochettino ancora, ho detto, ma guarda qui che in fin dei conti poi queste cose che stiamo vivendo a Como non è che sono almeno di quel gruppo di persone. E anche qui abbiamo, no, con tante cose positive, no, secondo me dobbiamo anche comunque affrontare una realtà politica, no, che ci vede adesso impegnati, no, e che ci aveva visto prima impegnati nel cercare di avere delle primarie, quindi per, intendendo avere un qualcosa che sia utile a noi, al nostro territorio, una primaria vera, intendendo che sia un momento di vera partecipazione da parte dei cittadini. Quindi, in ultima analisi, anche di un cambiamento, non soltanto per vincere, ma anche per cambiare il modo di governare, per cambiare il nostro modo di essere. Perché secondo me, in questa fase, io credo che molti di noi si sono trovati anche a confrontarsi con la nostra, con la loro esperienza, con la nostra esperienza che è fatta di percorsi anche diversi, purtroppo troppo individuali, individualistici, no? O che si è persa poi negli anni, no? Si è persa anche in analisi, anche forse troppo astratte, no? Che però non sapevano, non che siano sbagliate, ma che poi devono diventare proposte concrete, no? Rispetto forse ad altri che hanno lavorato nel frattempo, no? Da questo punto di vista forse troppo sul, tra virgolette, sul concreto, ma da soli, no? Diciamo, per cui di fatto si era creata nella sinistra o in questo grande centro-sinistra una divaricazione enorme, no? Dove c'erano modi di essere e modi di vedere, di vivere, no? Anche la vita politica, ma anche la vita normale, la vita sociale, la vita di tutti i giorni, dove di fatto c'era un'area che criticava e che, mi ci metto io per primo, tutto il mondo e tutto lo studio che sia, c'era ancora, ma dall'altra invece altri che portavano avanti dei percorsi che erano diversi, che loro si conoscevano, tante volte c'erano queste critiche, no? Tu sei dentro nel palazzo, no? Io credo che sia anche giusto tirarle fuori queste cose, no? Perché l'opposizione cosa ha fatto negli ultimi 5 anni, no? Dico, perché non è mai venuta fuori? È anche vero, dico così. D'altro canto, è venuta fuori verso chi, verso che cosa, quando poi poteva anche non trovare, perché se facciamo un'analisi a tutto tondo, no? Anche altri che invece, no, questa, la politica così veniva vista come, o viene vista come qualcosa di, non lo so, di non positivo, no? Oggi ci siamo posti tutti, e secondo me anche questo percorso che abbiamo fatto noi, abbiamo posto tutti il problema invece di voler governare questo territorio. Io parlo da questo, dico, di voler prendere, perché alla fine, no, dico, di voler governare il territorio, e di fatto comunque escono ancora delle diversità, ci mancherebbe altro, dico, purtroppo tutto questo che ho fatto così, delle grosse diversità, perché ma si è visto anche, nonostante i rapporti ottimi all'interno, diciamo, nelle primarie, comunque c'era di distinto, no? Dico, era molto evidente, no? Così, ma nel senso di dire, quando io l'ho letto anche adesso in qualche mail che non è pubblica, così, no? Quando si parla di partecipazione, ecco, è un concetto che, non lo so, forse che andrebbe veramente approfondito, no? Anche a oggi, no? Anche velocemente fatto, velocemente, cosa vuol dire, perché è una parola che ormai adesso usano tutti, diciamo così. Io ho certe idee in mente, no? Però partecipazione significa, come dicevo prima, comunque modificare il modo di essere, modificare il modo di governare, non è soltanto un concetto così, no, astratto, no? Deve portare poi veramente a una modifica, no? Il tutto si inquadra in una situazione generale, e l'ho detto anche l'altra volta, che io comincio a capire ancora di più, ma anche rispetto al locale, che dire drammatica è un eufemismo, cioè dire niente, cioè l'aspetto generale, globale, no, diciamo, dell'economia, quello che sta succedendo adesso nell'attacco a dei diritti e la crisi del lavoro, che quindi vuol dire anche crisi sociale, eccetera, che io credo che oggi parlare anche di elezioni a Como senza tener conto, senza avere, fare un'analisi forte, no, su questo, no, su questi temi, è anche da fuori. Guardate le cose che stanno venendo fuori, no? L'IMU è stata inventata dalla Lega, no? Sapete, no? L'IMU era la tassa base della Lega. Quando ha fatto il federalismo fiscale, la prima cosa che ha tirato fuori era l'IMU, perché l'hanno inventata loro, no? Poi dopo, Lega e tutto. Dopo, siccome l'hanno stoppati subito, perché con l'ha del capio tirato via l'ICI, no? Per il momento detto l'IMU, lo stiamo zitti. Se dico delle cazzate su queste cose qui che sono anche tecniche, ditelo, dico così. Adesso sta diventando la battaglia, no? La battaglia parte della Lega, no? Contro tutto il sistema e roba del genere, così. Io dico, no, questo, no, fa parte anche di un degrado completo e complessivo, no, diciamo, della politica, da parte anche di tutti questi partiti, che però non è una cosa soltanto per arrivare, cioè dietro sicuramente c'è un disegno politico molto più grande, no? Che noi dobbiamo essere, noi, quando dico noi, io dico parlo delle persone, io faccio un riferimento, quelli che lavorano, no? In generale, no? Cioè dico, quelli che lavorano per me sono un riferimento, sia lavoro dipendente che autonomo, eccetera, così, con tutte le cose che ho apprezzato in parte, in un articolo che ha fatto lui, che ha messo lui oggi, su perché, forse perché lavorandoci, no, mi viene troppo. Però io dico, ecco, questo è il discorso che è oggi in discussione anche a Roma, è vastissimo, secondo me, no? Però noi dobbiamo anche capire, no, cosa vogliamo, soprattutto noi, anche in questo ambito, e come vogliamo rapportarci rispetto a un vincitore della competizione, no? E un modo di pensare, mi spiace che non sia qui Lucino, dico, mi sarebbe piaciuto anche confrontarmi, no, su queste cose qui, che poi tante volte anche il dibattito, se devi poi fare delle critiche quando non ci sono le persone, così, no, però facciamole bene, nel senso di dire così, un confronto, comunque, ma non è solo suo, penso, no? Un modo di anche di intendere sicuramente il modo di fare politica, che sicuramente non è proprio coincidente, no? Né con il mio, né, non che dico che il modo che ho io sia il migliore, dico, io sono convinto che ci siano delle cose positive, no? Ma perché io credo che sia fondamentale non solo vincere, ma anche cambiare il modo di governare, no? E dare questo segnale forte, no? Modo di governare, e dare questo segnale forte assieme a dei contenuti precisi alla città di Como, no? Ma un segnale forte che è un segnale forte per noi proprio, dico, nel senso di dire che i processi partecipativi, eccetera, vuol dire che tutto il sistema del governo attuale deve essere visto in un'altra ottica, dare nomine, no? E guardate, quando poi si parlano di queste cose concrete, non so, voi altri ne sanno molto più di me sicuramente, no? Quando si parla poi di persone, l'abbiamo visto anche noi nel piccolo, no? Cavolo, quando si parla poi di persone, di incarichi, di responsabilità, è umano, no, che vengono fuori i problemi, no? Dico, è umano, lo sapete affrontare, no? Devi avere degli strumenti adatti. Allora, la mia domanda che mi sono fatta è questo zipper e basta, lo parlo proprio, sono un po' prolisso, ma lo sapete, insomma. Io dico, oggi siamo un momento importante, questo un momento importante per porre le basi, abbiamo una campagna elettorale davanti, abbiamo queste proposte di lavorare nelle aree, no, di queste aree tematiche, no, che sono state individuate. C'è un tipo di percorso che ho dovuto fare l'altra volta, no? Che non era molto chiaro. Ci sono delle scelte che sono un po' troppo calate dall'alto, dal mio punto di vista, che vanno invece maggiormente condivise. Bisogna far capire che anche chi ha vinto e ha ragione, eccetera, però ha vinto una persona che deve anche rispecchiare le idee dell'intero complesso. Oltretutto ha vinto, io lo dico un po' proprio, no? una persona che non ha neanche il 52% dei voti, cioè la maggioranza l'hanno gli altri che non hanno vinto, però la democrazia abbiamo detto che si prende più voti così, perché dico, non è che uno poi ha vinto nel senso di dire alla maggioranza al 50,1, no, non c'è neanche quello, quindi il 50,5 no, ha votato altre persone, 3, no, diciamo così. Per cui io credo che sia importante, no, nel nostro percorso, ecco, affrontare questi temi. Però c'è un problema più concreto. Un problema che noi avevamo all'inizio tante persone intorno, adesso non è tanto stasera, dico così, e non ci sono più, ecco, e anche e soprattutto la parte comunità un pochettino più giovane, questo mi preoccupa tantissimo. No, io ho tantissimo nel senso di dire che qui c'è un qualcosa nel nostro modo di fare, un nostro, fare così, mio, diciamo, che non quadra, no? Perché se è così, dopo può essere un momento di stanchezza, c'è sempre nei movimenti, l'ho sempre vissuta così, però mi preoccupo un pochettino, no? Per la parola. Comunque Mario ci ha chiesto se era necessaria la sua presenza, no? E noi, pensando fosse una cosa più organizzativa interna nostra, stasera le abbiamo fatto capire che avrebbe evitato volentieri, però se in qualche modo... Posso fare l'ultimo però perché delle mie cose mi dimentico sempre una cosa. A livello organizzativo però, allora, io dico, a me non mi interessa poi perché è così il discorso, sinceramente così. Sono stati fatti comunque, allora, le primarie sono state convocate da un comitato di 5 persone che l'hanno sottoscritto. Quando adesso ho fatto dei contatti, no? 3 persone sono state contattate da professoria. 3 soggetti, no? 2, esatto. Ecco, il fatto di non aver neanche pensato, no, di sentire gli altri, io parlo per molti, no? Non è una cosa proprio corretta. Noi avevamo proposto nell'incontro con Lucini che quel comitato che ha coordinato le primarie continuasse a resistere e coordinasse il lavoro, diciamo, della coalizione. Questo noi l'abbiamo espresso in più. Ovviamente per adesso non sembra averci sentito Mario, però detto questo, se mi permettete questo passaggio, credo che noi dobbiamo essere tutti molto consapevoli, semplifico un po' la cosa che hai detto tu, ma condivido, che ancora alcuni non hanno metabolizzato l'idea che questo processo elettorale porta una coalizione con all'interno delle culture politiche e sensibilità affini ma non coincidenti. Adesso, per semplificare molto, ma ha vinto la parte più centrista del centro-sinistro, possiamo dirla così, alle elezioni hanno partecipato in maniera massiccia portatori di voto che esprimono una sensibilità molto di centro, diciamo questa semplificazione. Allora, il problema è come tenere in piedi il concetto che esiste una coalizione. Come dentro questa coalizione si costruisce il processo per cui il programma è la sintesi di queste sensibilità e le porta dentro tutte. Terzo, come alle elezioni si riesce ad andare diversi ma uniti. E questa è una questione delicatissima, perché la grande semplificazione in questo momento è che noi questa coalizione diventi confrontabile con una delle tante operazioni civiche che stanno nascendo qua e là. mentre noi dobbiamo rivendicare, credo, in maniera molto, molto chiara, che questa è un'esperienza invece politica, nel senso più interessante e significativa del termine, senza che questo diventi un'ossessione, ma questa cosa va detta e va in qualche modo comunicata. Io credo che dobbiamo dare tempo a Mario, per quello che ho visto io, di capire cosa deve fare, insomma, come lo deve fare. Per adesso, secondo me, lui si muove in, diciamo, con una sorta di disponibilità personale, ma non ha ancora stabilito la relazione chiara con quelli che sono, da una parte i suoi elettori, dall'altra parte il partito del quale lui è capogruppo in Consiglio Comunale. Perché il PD in questo momento sembra un'entità. Sì. Però se guardate a guardare i dati, come abbiamo fatto noi settimana scorsa, l'ultima riunione di Paco, delle elezioni amministrative, Milano, ma non solo, anche capoluoghi che ci sono stati in primavera, trovate che il risultato è molto semplice, no? Molto semplice. Il PD, che abbia il candidato che non ce l'abbia, non importa, prende il 20, 25, 28, insomma, prende una cifra di voti. Poi viene una qualche formazione che abbia un carattere, tra virgolette, di area più di sinistra, e poi si riconoscono sotto tutte le liste civiche, a partire da quelle del sindaco, a partire da tutte le altre fantasie che si creano sotto. Questa cosa, secondo me, va guardata in faccia, insomma. Nel senso che credo che noi dobbiamo uscire dal nostro immaginario e provare invece a vedere che cosa succede davvero per il cittadino che dalla politica se ne frega totalmente e che il giorno che suona il campanello prende le gambe e la mette qualcosa nella scheda. Questo dobbiamo saperlo, perché sono i tre processi che ci interessano. Io sottolineo un momento, Danilo, sul fatto che è iniziato un processo questa un'estate, insomma, con queste questo processo, lo dicevo l'altra volta, ma secondo me è rilevante, è importante, soprattutto nella ipotesi, che io spero che non sia soltanto un'ipotesi, che si possano vincere queste elezioni, perché i problemi non sono adesso, ma se i problemi ci sono cominciano dal giorno dopo, nel senso che è storia, insomma, è tradizione che tutti coloro che sono attaccati come un francobollo lo volano via, perché poi il sistema decisionale, tra virgolette, di potere, non lo so, chiamiamolo come volete, è un altro, funziona su un altro livello. Quindi il rischio di tutti quanti noi, proprio dico tutti quanti noi, compresi quelli che sono strutturati come noi, ma siamo piccoli, è quello che il giorno dopo sei vaccinato. Cioè che il giorno dopo, se hai vinto le elezioni, il PD comunque rappresenta la maggioranza assoluta dentro questa situazione, per cui alla fine tu sei, tra virgolette, semplicemente gregario, oppure ti devi assumere la responsabilità sgradevolissima nella storia del centro-sinistra di essere quello che dice no, che è una cosa che sapete che è devastante. Cioè noi dobbiamo creare oggi delle condizioni perché domani, se si vince, non si cominci a dire io tiro di qua, io tiro di là. Quindi questo percorso è estremamente importante, però dobbiamo costruire il modo. E il fatto che nei primi incontri, non so cosa è successo con voi, ma con noi questo è venuto fuori come la prima questione, se voi avete intenzione di presentare una lista, la nostra risposta è sicuramente, cioè non c'è neanche il dubbio che noi, Paco e Sel, visto che c'è questo rapporto che si è stretto, noi ci presenteremo con una lista di sicuro, insomma, questo è chiarissimo, una lista che è aperta ovviamente, ma che vuole rappresentare lì anche politicamente la presenza di qualche cosa che ha un disegno, una prospettiva un pochettino più a sinistra rispetto a quello che può rappresentare il PD, piuttosto quello che può rappresentare la lista del sindaco. Questo lo dobbiamo dire su, e l'abbiamo detto con grande chiarezza e lo diciamo anche a voi. Cioè questa lista non ha dei nomi dentro, ha semplicemente un'ipotesi, come dire, di collocazione politica, con dietro un modo di fare lavoro e di relazione con gli altri. Cioè la fatica nostra di esserci è una fatica, ovviamente, di dire noi siamo, anzi, e sempre vale anche la reciprocità, cioè penso che i nostri incontri, che sono sempre un mercoledì sera, sono sempre incontri aperti. Questo lo dico ad alta voce perché sia chiaro per tutti, perché la prospettiva è quella di trovare gli spazi per costruire relazioni che sia profonde, di conoscenza vera, non mediata dal giornale, sentito dire, da quant'altro, che è la cosa che funziona invece purtroppo in maniera devastante, così sempre. Per cui si sappia che se se devi sapere cosa penso, cosa credo di fare, cosa voglio proporre, me lo viene a chiedere, io lo chiedo a lui, non me lo faccio raccontare dalla sintesi che sto proponendo. Questo qua dobbiamo dirle con grande serenità e subito, perché mi piace l'idea che ha detto Danilo, che l'obiettivo è quello di vincere, quello poi di fare un'esperienza politica che abbia anche il senso di una novità di metodo e di stile, che possa funzionare normalmente nella solita devastante esperienza delle liti a posteriori di chi si è messo d'accordo per finta prima per poi cominciare a litigare il giorno. Su questo Mario è assolutamente molto, per adesso, molto sfumato. Però non si, almeno io sono ignorante, non ho esperienza politica, non sembra che si respiri questa via qua. Però non sembra. Questa è quella che noi dobbiamo costruire. Certo, però se le premesse sembra che ci siano per poterla costruire, poi dopo. La mia vita, quello che segnalavo è l'assenza, non tanto la presenza. Cioè quello che preoccupa secondo me sono le assenze, non le presenze. Cioè il fatto che il PD non parli, ma proprio non parla, a me questa cosa non è che piace molto. Cioè a me, cioè, Mario non è, Mario Luci non è PD. Cioè, a parte che lui potrebbe dire io non sono, benissimo, non sei. Allora, parliamo delle cose che non sei, anche se c'è un riferimento, e questo riferimento è certamente importante, perché magari lui faccia il capogruppo di chissà che cosa, lui fa il capogruppo di. Però il riferimento è assente, totalmente assente in queste cose. E questo a me, francamente, non piace, glielo ho anche detto, lo stesso, dico solo. Il fatto che il PD sia esplicitamente presente mi sembra una cosa importante, però il PD non ho ancora capito se abbia dubbio o non dubbi di presentare la propria lista, e secondo me la deve presentare, su questa è una cosa che io gli ho detto anche chiaramente, insomma, secondo me la lista del PD ci deve essere, cioè non può fare un'operazione centro-sinistra senza il PD, anche se in questo momento avere la targa PD vuol dire avere, come dire, una serie di problematiche, certo, noi tutti ti porterai i tuoi, che sono quelli che non hanno preso niente delle contraddizioni, e ovviamente poi ci saranno. Adesso, nel dopo di sì, la sensazione mia è proprio questa. Cioè il fatto che la domanda che tu hai fatto, no, va bene, ha parlato con chi? Ha parlato con Giselle, con voi? Sì, ha parlato con noi, beh, non ha parlato con Marcello Mertoro, però questa cosa che cosa significa? Perché, perché poi questa cosa l'ho detta con Mario Lucini, che anche io ho parlato varie volte, sia con Mario che con Mertoro, fuori dal contesto ufficiale. Il problema diventa, ma di attorno è un candidato del PD? Questa domanda non sa rispondere nessuno, sì, nel senso che lo stesso di attorno dice io mi sono candidato di loro. Dopodiché io sono stato una segretaria del PD qualche giorno fa, alla quale Marcello è andato, me l'ha raccontato lui, ha posto la questione, chiedendo che il PD dicesse qualche cosa, insomma, rispetto a questa vicenda. Però a me non preoccupa tanto la vicenda Marcello. Mi incuriosisce di più che cosa ha fatto lì questa vicenda, perché se noi ci confrontiamo rispetto anche a questioni di metodo, questioni di merito, perché voi avete sentito per esempio nel garbato parlarci durante gli incontri, su alcune questioni ci sono delle interesse, ne dico una per tutte, la ticosa. La facciamo annegare questo progetto oppure lo teniamo in piedi? Secondo Marcello Lentoro l'ha tenuto in piedi, secondo me l'ha fatto annegare, però poi decidiamo insieme. L'altra ieri sera, non sarebbe un tribunale, ieri sera noi abbiamo fatto mancare il numero legale, perché ieri sera c'era la votazione definitiva della cosa dello sport su Amuggio. Che a parte destinare quell'area a una gestione da parte di un privato per i prossimi 30 anni, però chiede anche 6.300.000 euro di risorse pubbliche. Allora, a 3 mesi dalla fine di un mandato, perché tanto è, siamo tutti d'accordo sul dire ok, vai avanti e impegni la prossima amministrazione per 6.000.000, ti dico di no, già dire fermi tutti, su questa cosa fermi tutti. I prossimi che inizieranno diranno se gli va bene ancora sta storia oppure se dobbiamo fermarla. Ma anche su questa cosa qui dico due esempi, come dire, di massicci dal punto di vista del fatto economico. Avete fatto assieme ieri sera questa cosa? Sì, sì, sì. Tutti assieme. Però, come dire, un confronto non esiste e qui ci sono alcune personalità del PD che in certe vicende, boh, non si sa bene che posizione abbiano. E a me piacerebbe invece che ci si confrontasse, perché poi su certe questioni devi uscire con una posizione netta, secondo me. Cioè, i cittadini capiscono poche cose, ma certe cose le capiscono chiaramente. Per cui mi devi dire questa cosa qui, io intendo muoverla in questa maniera, quest'altra intendo muoverla in quest'altra. Su questo il confronto l'ho fatto prima. Cioè su alcuni nodi grandi. Sì, non fa fatto addirittura prima di far partire i gruppi, perché oltretutto io immagino che un gruppo del sociale, un gruppo della cultura, come il gruppo dell'urbanistica, se al loro interno non hanno appena mai davanti e non la portano, sono tutti gli ingredienti che non viene bene, faccio un esempio banalissimo. Per cui le persone si iscrivono a un gruppo, ci sono quelle che ne capiscono e quelle che non capiscono, però ci vuole il combinatore che dà la spinta. Ma se lui non si fa la portavoce di chi rappresenta l'idea di pacco, quella del PD, non si arriverà mai a niente di concreto. No, c'è il rischio vero che tu hai una cosa concreta, poi dopo arrivi in fondo e su alcune cose importanti secondo me il PD si deve esprimere, cioè ci sono dei nodi che vanno un po' semplificati, sono nodi politici, poi in realtà sono anche nodi tecnici sui quali la posizione forse non è così evidente, come e su queste cose l'interlocutore non diventa più soltanto Mario Lucini, ma diventa chi dovrà poi in tempo così comunale sostenere o non sostenere una linea. Capite? Cioè l'esperienza di Bruni è stato detto da altri, ma a me sembra un'immagine chiara. Io credo che ieri sera Bruni sia stato contento che gli abbia fatto mancare il nome, perché secondo me lui su questa cosa, pensandoci bene, sa benissimo che abbiamo ragione, però lui è stato in tutti questi 10 anni il referente in Como di tanti, come dire, che lo hanno diretto da fuori, può essere la regione, possono essere alcuni grandi elettori, non lo so. Questa cosa il centro-sinistra credo che la debba fuggire con grande orgoglio, insomma, cioè che non è una idea di amministrare la città diretti da un altro pianeta. L'idea è quella di amministrare la città in una ricostruzione della partecipazione, come è stato detto, quindi confrontandoci con... è ovvio che devi comunque interagire con il sistema grande che ti sta sopra, però con un'autonomia di decisione, di confronto, e su certe questioni è il caso di capire, se ci sono già delle ipotesi. Io volevo dare una voce di Valentino, vorrei che la vedete, perché la gente non vale il video. Perché è un po' come dire, in qualche modo potrebbe essere un'ipotesi di poi quella su questa rivoluzione che su questa cosa che il prima cosa è riferimento alla difficile situazione economica anche a livello nazionale. Qui sono senz'altro lo sfondo che dobbiamo avere presente più che mai e rispetto al quale l'agire a livello comunale ha un grande rilievo, secondo me, innanzitutto perché proprio i servizi che il comune è tenuto a garantire ai cittadini, il modo con il quale questi servizi vengono erogati assumono una rilevanza ancora maggiore in un contesto in cui le disponibilità economiche dei cittadini si fanno più povere. Secondo, c'è un ruolo diciamo così che non è nella mission del comune, ma che è in un'interpretazione più ampia del proprio ruolo, che è in ambito economico, in ambito di favorire opportunità di lavoro, che è molto rilevante e che mi sembra fino adesso questo comune non si sia nemmeno posto. il tema per le imprese, ad esempio, soltanto banalmente le condizioni di, con cui il comune crea occasioni di lavoro per l'imprenditoria, per la piccola imprenditoria, piuttosto che le grandi società d'appalto a livello locale, fanno la differenza, il modo con il quale favorisce meno lo svolgimento di alcune attività. Ecco, quindi attraverso un funzionamento diverso, efficiente e diverso, con un'interpretazione più ampia del comune, passa una gran parte delle condizioni economiche di vita dei lavoratori, della gente comune, anche attraverso il lavoro delle imprese. Quindi io ho ben presente questa importanza di queste due dimensioni. Sul discorso di questa, cioè poi anche io avrei preferito che ci fosse Mario Lucini e possibilmente che ci fosse anche lì attorno, perché effettivamente l'occasione di parlare assieme con tutti i quattro candidati fino adesso non c'è stata. Ed è secondo me una mancanza grave, nel senso che mi sembra che in questo modo andiamo a contraddire proprio quelli che sono stati i fondamenti di tutto il percorso delle primarie e gli accordi che abbiamo sottoscritto. Quindi credo che sia importante una ripresa di un'azione politica, anche se è finito l'associazione primarie, il movimento primarie per Como, un'azione politica molto forte dei cinque soggetti che hanno sottoscritto l'accordo e che devono, io lo chiedo con forza, vigilare perché tutto il percorso successivo si sviluppi secondo quelle che erano gli accordi, i presupposti e le intese iniziali, ma non solo per un ragionamento di correttezza tra i candidati, per la necessità di riuscire nell'obiettivo che ci siamo dati di far vincere il centro-sinistra. Quindi attenzione, non, se, lo dico dichiarando apertamente che la collaborazione leale e solidale al candidato che ha vinto c'è e non è fuori discussione. Però appunto quella è una delle condizioni, altre condizioni sono quelle di una stesura di un programma che deve essere il più possibile espressione di tutta la coalizione, non è il programma del candidato sindaco. Questo io l'ho sentito venerdì sera dichiarare in modo che mi cioè che urta con quella che è la mia convinzione e anche la mia sensibilità. Quindi io chiedo, raccomanderei con i cinque appunto firmatari le organizzazioni politiche affrontino questo tema politico. Poi c'è anche un lavoro di accordo fra i quattro candidati e anche questo mi spiace perché ho scoperto che stasera il 15 forse c'erano anche tutti e tre, mancavo soltanto io, avrebbe potuto essere l'occasione di vederci assieme, però al di là che gli ancora lo sollecita, mi sembra giusto insomma che ci sia un momento di confronto indipendentemente anche dai risultati che ciascuno di noi ha avuto, pari visibilità, direi pari dignità nell'assumerci degli impegni rispetto alla costruzione del programma. Non mi sembra giusto che ci siano due livelli di attenzione diversi, quindi credo che questa dimensione vada recuperata, anche perché il tema della partecipazione, di un diverso modo di fare politica, di maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini e della gente, noi lo mettiamo, l'abbiamo dichiarato tutti nelle nostre presentazioni individuali, credo che sia la base del programma, il membro della partecipazione dichiarato, cioè prima di prometterlo ulteriormente deve essere assolutamente messo in pratica da subito. E questo secondo me, detto, non voglio essere critica soprattutto perché mancano altre due persone, però questo, in questo momento secondo me è la riflessione più importante che dobbiamo fare. Se stiamo avviando questo percorso con delle modalità che siano le più efficaci a garantire questo obiettivo. Io, scusate se insisto, ma torno a ripetere un concetto che avevo suggerito, un metodo che avevo suggerito venerdì scorso, che forse non ho spiegato in maniera sufficientemente chiara, che fra l'altro non è un'idea mia, ma mi risulta sia il metodo che a Milano hanno adottato, che nella formazione dei gruppi l'individuazione del responsabile non è un'individuazione fatta dal vincitore che in qualche modo investe gli altri di una responsabilità, ma se il coordinamento diventa un'espressione collettiva dei vari gruppi che hanno lavorato per le primarie, è un'espressione dove ciascun gruppo colloca, indica le persone più adatte o più disponibili, eccetera, mi sembrerebbe sicuramente un metodo molto più democratico. A questa impostazione è stato contrapposto il fatto che sarebbe poco efficiente, nel senso che un coordinamento collegiale non garantisce rispetto al rispetto dei tempi, eccetera. In nome di un po' di efficientismo. Sì, no, oltretutto io mi permetto di dire cioè che nelle organizzazioni minimamente complesse il metodo della conduzione attraverso degli organismi plurimi è sempre più frequente, proprio perché in tutte le realtà in cui è bisogno di favorire l'integrazione è quello il primo livello attraverso il quale coinvolge. Quindi va bene, adesso è andato in questo modo, mi è piaciuto soprattutto il fatto di averlo proposto. L'incontro che abbiamo avuto noi è stato respinto, è stato riproposto, cioè adesso al di là di tutto la cosa più importante forse era discuterne e poi arrivare assieme ad una valutazione. Ecco, questo mi sembra che rischi un po' di mancare. Quindi quello che dobbiamo, va bene, abbiamo questo metodo, cerchiamo comunque ora di introdurre delle modalità effettive di democrazia e di trasparenza, perché come io vedo questa fase anche come una fase in cui noi ci alleniamo a lavorare in modo diverso ed è la fase in cui dimostriamo effettivamente una diversità di altri, altrimenti veramente diventano soltanto parole. Ultima cosa, scusami, sulla questione, sulle osservazioni che faceva uno sui risultati elettorali, la comparazione con i risultati di tutte le altre parti, dove anche dalla mia veloce lettura risulta che poi alla fine sia quasi sempre stato il fatto che di questo metodo che ha sollecitato tutti gli elettori ha tratto un maggiore vantaggio, perché poi i voti ha sollecitato di più la partecipazione. Ecco, credo che però la situazione comasca sia veramente anomala e rischia di cioè non credo che valgano quei riferimenti. La situazione, la maggiore contraddizione che io vedo in questo momento è quella che cioè in realtà c'è una differenziazione forte sottolineata tra il PD e la lista Lucini come qualcosa che non ha più a che vedere con il PD, dimenticandosi che Lucini è il capogruppo del PD e che c'è stato comunque un impegno significativo da parte non di singoli ma dell'apparato a sostegno, quindi una lista del sindaco cioè rischiano di cannibalizzarsi le due presenze. Credo che interpreto il ritardo nell'assumere posizioni ufficiali da parte del PD come una difficoltà nel gestire questa situazione. Ecco, l'ultima informazione che mi sembra doveroso a questo tavolo riportare è che, così come uno diceva, che la posizione di Papo è un contributo a supporto del candidato, non si annulla, diluisce nel movimento che ci sarà, per quanto ci riguarda con le persone che hanno lavorato con me, noi ci siamo posti questo problema, ce lo stiamo ponendo, non siamo ad una soluzione, nel senso di valutare quale possa essere la strategia migliore in questo momento per non disperdere la forza elettorale che abbiamo riuscito a raccogliere anche inaspettatamente, e quello di contribuire alla vittoria del centro-sinistra portando anche lo specifico di un'esperienza che per quanto breve è stata abbastanza significativa e coinvolgente. È una riflessione che stiamo facendo, ne abbiamo parlato per correttezza nel primissimo incontro che abbiamo avuto con Lucini, proprio perché non vorremmo in nessun modo che questo venisse vissuto come un boicottaggio o un venire meno ai patti. È qua semplicemente una valutazione che, al di là delle considerazioni sulla capacità organizzativa del regime del corso vivo, però si baserà anche appunto su una completa valutazione del fatto se questo aggiunge qualcosa allo schieramento del centro-sinistro oppure no. Mi sembra doveroso. Lei vuole fare una domanda? Dopo il fatto che voi uno state con partecipazione alla costruzione del piano. Proprio sul fatto che l'ho trovata veramente, che secondo me l'ho trovata una mossa veramente un po' sbagliata, perché di mettere i due candidati, peraltro non mi interessa. Sì, ma il numero non l'avevo più. Il capo di un gruppo di lavoro. Quando voi avete la funzione politica tutta da giocare, che come giustamente adesso Gisella introduceva anche nelle proprie di storie, perché mettere voi così? Perché giocarvi in quel modo lì, quando invece uno avrebbe preferito, in caso del tracking molto meglio secondo me, un personaggio qualificato che possa, mentre ho apprezzato moltissimo, scusami, poi mi sono soprattutto. Disegni come dire, implicito o esplicito, non lo so, in ogni caso, alla fine la sua forza è certo che la spenderà, questo è poco mai sicuro. La nostra forza dov'è? Sta nello stanare, sterma si mai, no? Così come è stato fatto, io con orgoglio, quando siamo riusciti a trovare una convergenza, un'intesa sui candidati per le primarie, perché è stato messo in piedi un movimento che ha segnato un cambiamento di equilibrio sul campo della politica locale, se facciamo questo anche da qui alle come nell'azione della messa a punto del programma, da qui fino a quando si andrà a votare, io penso che il partito è vero, ma qualche risposta la dovrà dare, ma da sono cavoli suoi. Cosa abbiamo in mano? Allora, abbiamo in mano questa intesa sottoscritta, non è di poco conto, Ruccini, che è il candidato designato, deve stare dentro sul terreno del confronto per definire concordamente un programma, no? E come lo vedremo poi. Io mi voglio un attimo soffermare su un'idea per me cruciale, sulla quale ho espresso dissensi personali profondissimi fino ad oggi e sulla quale voglio tornare, ma che penso che possa riannodare un po' tutto quello che è stato detto qui questa sera. Io ho notato qui le parole chiave, vincere, programmare, governare, cambiare, ognare, soldi, visti, servizi, no? Lavoro, posti, tutte queste cose qui. Io penso che la chiave di volta di tutto questo insieme sta nel momento di sta in una ricerca della eccellenza che esiste sul territorio della politica nazionale, mondiale, dove la vogliamo beccare, la becchiamo, alla quale ispirarsi per ricavare un modello che vi possa dare un suggerimento per i servizi, per i posti di lavoro, per il lavoro ai lavoratori, alle imprese, che vi possa dare un suggerimento per la mobilità, un suggerimento per i servizi, un suggerimento per l'urbanistica e tutto quello che, per le nomine per esempio, no? Tutti questi temi sui quali noi rischieremmo di scontare vecchi modelli, superati la vecchia politica, potremmo tentare di ricongiungerli andando ad attingere a modelli avanzati. Ma qui vuol dire che occorre fare dare in carico a qualcuno qualificato affinché su alcuni settori chiave faccia una ricerca e ne faccia discendere un modellino sui quali poter lavorare noi qui a Roma. Ora, mi pare così una cosa di poco conto detto, ma mi pare rivoluzionaria, perché potrebbe essere una strada che garantisce il meglio a cui tutti abbiamo diritto. Io non mi voglio accontentare del mediocre, del pressapochismo, di quello già fatto, della buona volontà, neanche mi interessano le persone di buona volontà, mi interessano le persone efficaci, le persone che abbiano competenze, che vanno a cercare una città sul caso e che importino che quello che è possibile applicare a Roma. Ecco, se questo spirito noi lo mettiamo sul tavolo della programmazione, io penso che il pachiderma, qualche soltichino potrebbe forse anche sentire. Questa era il mio personale dissenso. Io non ho dato a nessuno di voi, proprio per dissenso verso questa cosa che sentivo forte, che era maturata nel PVC un pochino, che è rimasta per strada. Adesso però, come sono detto, io andrò poi a votare quello che vince, perché ci sto, non voglio perdere l'occasione. Ecco, io, il mio contributo è questo. Io credo che si possa fare un'azione che mi possa mettere con grande credibilità l'ipotesi di vincere, portando qui a Como il meglio che abbiamo, andando a cercare dov'è. E il meglio che c'è abbraccia tutti i settori, abbraccia appunto i posti di lavoro e abbraccia l'impresa, abbraccia i servizi, abbraccia la viabilità, abbraccia il welfare, abbraccia tutto, abbraccia anche la scuola, gli asili nido, pure quello abbraccia. Basta andare a copiare umilmente copiare e aggiungere un po' di valore in più. È molto avanti in questa maniera. Quindi io dico, bisogna, secondo me, richiamare qui i quattro candidati e con quelli fare un discorso di programmazione che, richiamando il vecchio libro, lo ripropongo con maggiore forza. Allora, il candidato si dice che è uscito in un certo... Allora io volevo presentare questa bozza di volantino, perché secondo me il passaggio è quello che o riusciamo a uscire dai volti noti, che anzi sono anche quelli che arrivano a votare primarie, che sono poi il 4-5% del corpo elettorale, quindi con questi non possiamo andare a votare, cioè dobbiamo uscire dall'alveo in cui ci siamo mossi, in cui siamo in questo momento. Allora, da una parte assolutamente corretto tutto il tipo di narrativa di cui state parlando. Parlando voi interne, però secondo me dobbiamo, per poterne uscire, non mi sembra che di lì, cioè ci sono una serie di accenni che sono di uscita. Io cercavo in qualche modo un rovesciamento della situazione, anche perché il candidato sindaco è molto classico, no? Nel senso che mi piace, va benissimo, no? Però è veramente un candidato sindaco classico che in qualche modo difficilmente intercetta anche la crisi, no? In qualche modo la diversità di questo momento, che è un momento davvero un po' eccezionale. Lo vedo molto bene, in una gestione di normalità, no? Perché ha proprio forse queste capacità proprio di uno che si presenta come una persona che sa gestire le cose, che le può gestire bene. Però in questo momento c'è, come dire, un'eccezionalità, no? C'è un'eccezionalità che dovrebbe anche nel sentimento e nella vita di ciascuno rispetto alla politica. E anche forse nel bisogno, no, allora, io con questo, come dire, sto cercando di trovare una strada per uscire appunto dall'ambito del noto e per coinvolgere le persone, per diventare credibile. Allora, da una parte Lucino mi era piaciuto, l'altra sera quando ho detto sul programma, ho detto no, ma io il programma non voglio, voglio un programma vero, non voglio un programma finto, tanto per fare un programma, tanto per vincere. Cioè il solito programma che raccontiamo un fracco di balle e poi vinciamo. Invece una radicalità in questo senso, forse anche da cattolica, di quello che le cose devono fare onestamente e fino in fondo. Quindi da una parte, una parte del, come dire, della possibilità di rompere, cioè di vincere una città in una città di destra, ce la mette una, ecco, dall'altra parte però non è sufficiente quel passaggio lì, c'è bisogno davvero di coinvolgere le persone. Allora io non vedo altra strada, anche se questo poi è un tentativo, cioè tutti mi dicono vabbè, mettiamo dei manifesti, facciamo un volantino, non succede niente. Può darsi benissimo che io sia un vecchio movimentista illuso che a convocare le persone in certi momenti le persone hanno bisogno di si muovono. Allora può darsi che questa cosa non sia data, però non provare oggi in una situazione di questo genere a cercare di uscire da noi stessi, a coinvolgere la gente, a fare un percorso in cui alle persone gli si chiede di partecipare, perché c'è in gioco, perché l'unica piccolo spiraglio di possibilità di fare politica, ma non politica come astrazione, come idee, come cose, ma perché oggi la politica è la vita di ciascuno, mentre ieri alla fine in qualche modo non contavano il governo, tanto più o meno si stava bene tutti. Oggi non è più così. Oggi il pensionato rischia di essere davvero in una situazione di disagio, magari un comune che è dalla sua parte, magari gli dà da mangiare, per dire, no? Cioè non è più la situazione. Allora, io voglio, cioè propongo che facciamo un tentativo di coinvolgere la città, di chiamare le persone a, come dire, di uscire di casa e di partecipare a un percorso. Allora, però, perché questa cosa, non so se l'avete letto, in qualche modo c'è questa cosa di come da una parte il programma deve essere credibile, così anche questo appello alle persone deve essere un appello credibile. Cioè noi non possiamo fare, perché la gente viene sempre chiamata e dice cazzo, mi fate vedere quando si tratta di andare a votare e poi vi dimenticate di noi. Allora, quando noi facciamo un percorso, per cui noi facciamo capire che non ci dimentichiamo di loro, ma perché non siamo noi che dimentichiamo, perché il pallino in qualche modo lo lasciamo lì, cioè non è che non usiamo le persone, ma mettiamo nel pallino di quel piccolo potere del cavolo che non abbiamo, che facciamo finta di avere, lo mettiamo lì, e il potere è, non so, dire delle cose che dico, il potere al popolo, però qualcosa di questo genere, ma qualcosa che sia vera dentro di noi, perché se è vera dentro di noi qualcosa di questo genere, diventa credibile, e se è credibile forse riusciamo a fare un percorso che può essere un percorso anche difficile, perché non siamo abituati alle vecchie forme della politica, dobbiamo trovare le nuove forme della politica, però un percorso che può essere virtuoso e che può essere vincente. Allora io questo cavolo di volantino sono la prima stesura l'ho fatto 2 mesi fa, poi non era il momento perché era comunque. Da un certo punto di vista ho anche il sospetto che come dire, che anche personalmente che poi mettere in piedi una cosa di questo genere non sappiamo bene, quindi se non funziona non c'è problema. Abbiamo speso dei soldi a mettere dei volantini, abbiamo fatto qualche manifesto ed è finita lì. Se funziona è poi una partita davvero complessa, perché non siamo abituati a gestire le cose in questo modo e perché poi si tratta di mettere in gioco intelligenza, cioè un altro modo di fare politica. Marciale. La prima cosa seria fa si era riunito il circolo della Comare e c'era presente Stefano il circolo mio. E io ho chiesto proprio questo a Stefano. Ma qual è tutta questa roba? Quindi io sono riuscito a finire. Lei è? Non ho capito. Michele Lucci. Sì, no, lei ha scritto al PD. Lei ha scritto al PD, e quello è il suo circolo. Sì, sì, ok. Non avevo capito. Sono stati un po'. È un difetto. Perché ho detto, se guardiamo i dati, che l'unico iscritto al PD, che in un certo qual modo comunque rappresentare al PD, è risultato largamente ultimo in classifica. Perché io non faccio una gara di studio, anche proprio perché vorrei dire che no, sicuramente non c'è proprio nessuno il sostegno da quello che e infatti io credo che su questa cosa anche il comitato delle primarie debba dire qualcosa, ma dove si è dire qualcosa, ma la seconda cosa, guardate, nella riunione precedente no, si è detto con assoluta chiarezza, questo è il tema, che primario per Com non ti scioglie, non ha finito il suo ruolo, anzi, questa è una fase, no? Cioè, la seconda fase, no? Che è quella della continuità di questo movimento. Ricordo con molta precisione l'intervento di Paolo Cani, quando con insofferenza dice non possiamo continuare a nominare, a invocare Pisapia, Milano, con le sue specificità, il suo individualismo, è un'altra cosa. Vabbè, è che noi dobbiamo fare i conti, questo si può dire, e io sono d'accordo. Seconda fase, secondo me, primario per Come ha l'autorità e il diritto, se non addirittura il dovere, dice, no? Di assorbire un po'. Guardate, cari candidati, voi siete arrivati lì, perché questo è il prodotto del nostro lavoro, della nostra idea, della nostra intenzione, eccetera, chiaro? E su questo c'è un momento interessantissimo. Fatto di giovani, di giovani, di idee diverse, eccetera, e poi l'impasto, no? Della politica nella sua dimensione. Ma io non ho nessuna perplessità a dire, di fronte proprio a queste perplessità, riusciti sì, riusciti no, eccetera, l'elefante, il paghetto, eccetera, che il comitato di mai percorso, si faccia promotore l'iniziativa di convocare i candidati eletti e i coordinamenti in una riunione unitaria, va bene, tutta insieme, ne ha l'autorità secondo me, va bene? Perché questa è una sua funzione, secondo me, così mi ha messo in moto tutta la macchina che ha un'unità energetica in questa città addormentata, va bene? Di il suo procedere è questo secondo me, va bene? Rispetto alle indeterminatezze che vanno rispettate, guardate, io non ho sempre da dare a fette grosse, è chiaro che Lucini ha delle idee in testa su come si sente responsabile, eccetera, eccetera. Lo stesso dicasi Pago, lo stesso dicasi Gisella, lo stesso dicasi di Antonio, e quindi ognuno ha le sue. E allora l'elemento rendimento di queste difficoltà è qui, come dati li convoca, e insieme ci trovo questa partita, per non proprio non perdere forza. La seconda cosa che voglio dire, sentite, le riunioni poi successive, giustamente che il candidato si interguarda le sue idee, le partite, si vada a fare nel quartiere. Se noi vogliamo far partecipare le persone, va bene, la riunione, la prima, la seconda, la terza, eccetera, non è questo, no, si va a fare nei quartieri, si va ad aprire lì il dibattito, no, sul come pensiamo, come far sentire questa presenza, farla sentire forte, l'anno in mezzo a Sanino, a Monte di Pino, a Reni e via discorrendo, mi spiego. Quindi quella, la costruzione, no, del programma e delle iniziative da qui ad aprile, maggio, quando saranno le elezioni. Se vogliamo assolvere un po', io credo che ci sia bisogno di assolvere un po', proprio perché è un organismo, diciamo così, super partes, non è l'elemento condizionato da candidato, eccetera, è il soggetto di primario. È il mandante, diciamo così, no? Mi spiego. Questa è una cosa che ha l'autorevolezza, deve avere l'autorevolezza per fare. Ma per quanto riguarda questo volantino, scusami, sì. Questo volantino, io ti devo dire, se io lo do a una persona che passa per la strada, dice, e che lingua? Ho capito, un'opinione, è chiaro che qua dentro qua sappiamo tutti, però nel nostro ciclo dobbiamo riuscire a trovare il linguaggio per parlare, con quelli che passano per la strada, no? No, ma la forma non è un problema, la forma, il problema è di contenuti, non è di forma, cioè se quel tipo di contenuti va bene, questo processo va bene, è un conto, senso. Poi sulla forma è una bozza, non è. Sono d'accordissimo, sono d'accordo con te. Ti tocca. No, ma quello mi ha lasciato perplessa rispetto alla seduta precedente, tutto questo parlare di comunicazione che tutti hanno fatto, che non si sia fatto un gruppo di comunicazione. Io aggiungo una casellina in fondo, mettendo comunicazione e concettandomi, e questa sera ho riproposto il problema chiedendo qual è il ruolo che dovremmo avere noi nel sostenere con la nostra identità, con la nostra diversità, Lucini senza danneggiarlo. Diventeremo un capo scrittore. E mi è stato detto che si pensava di affidare la comunicazione a uno studio lì. Cioè, questo è il risultato di tutta la. Esterno. Cioè, per me la comunicazione non è sicuramente la foto bene e lo slogan. Come comunicare con la gente, questo non può affidare un studio di comunicazione. Una delle cose deve essere l'immagine con quale si lavora, secondo me, perché io anch'io sono stata un po' insoddisfatta di un'enfasi sulla comunicazione perché diventava un po' la sé stante, mentre invece secondo infatti, me è la modalità con la quale qui. Cioè cosa intendiamo per comunicazione? Ma va importato all'interno di come lavoreranno. Allora adesso al di là di come sono andate le cose. adesso abbiamo di fronte una decisione che non è stata, diciamo così, che è stata accettata o accettata pubblica, non lo so, però non abbiamo, diciamo, contrastato. A questo punto, secondo me, o si riapre una discussione chiedendo che siano fatti nuovi diversi, eccetera, ma tutto è possibile. Ora la cosa importante ora è cercare di far funzionare nel migliore dei modi questi gruppi, e che il tema della comunicazione, intendendo non come linguaggio o qualcuno, peggio se esterno, come stai dicendo tu, viene poi dopo a tradurre il risultato del lavoro dei gruppi, che è la cosa che mi preoccupa, ma invece c'è una, che all'interno del lavoro dei gruppi venga effettivamente sviluppato un modo di dialogo, di interazione con i cittadini, che sia quello che tutti quanti. Sì, però c'è, ci deve essere, c'è anche questo spazio di autonomia nella, nella comunicazione, nel entrare in contatto con, che non è che aspetti il via di un civi per dire adesso i gruppi hanno elaborato e noi finalmente possiamo andare come degli apostoli a... una cosa, un flash sulla mia, mi hanno chiamato, io vedo spazi di comunicazione, tre mesi fa mi hanno chiesto degli spazi, oggi mi hanno chiesto degli spazi, cioè guardate che poi, io rispetto a certi canali, altri canali sono, ma la fissione degli spazi esterni ce li giochiamo nel giro... E allora, cioè, però, se lo... cioè, se non vogliamo comunicare qualcosa come fare comune, per esempio, ci riteniamo libero di farlo. Sul tuo proposito, ecco, per concludere quello che stavo dicendo prima, secondo me questo è un momento in cui più si aprire degli altri punti, delle altre sedi nelle quali chiamare la gente ad essere presente, dovremmo, secondo me, trovare il modo di vedere di essere il più possibile presenti, con una sensibilità diversa e con la più estesa coinvolgimento in quei gruppi che ci sono stati, cioè magari definendo assieme anche delle regole di funzionamento di questi gruppi che siano di garanzia per tutti, di effettiva partecipazione. Non andrei ad aggiungere un altro, questa è la mia... Marco, sapendo la tantissima delle cose. Posso veramente dei contenuti consistenti, però c'è questo venino. Sto attento di stare sul punto di luce. Sempre serve già la mossa di aprirli direttamente a tutti, e quindi in effetti forse si poteva anche fare un coordinamento migliore che quello di parte del gruppo che già c'era. Va bene, ma detto questa cosa qui, io dico che noi abbiamo da fare tutto un lavoro di sponda all'incirca, che io personalmente penso che sento da tutti voi che la fiducia è alta nel personaggio e bassa nel nostro libro. E quindi io penso che Lucini abbia bisogno di questa sponda completamente alternativa alla struttura del PD, che è quella su cui possono approdare i cittadini. I cittadini non approdano il PD, sono approdati quelli che hanno la tessera in tasca negli anni, che forse sono più spunta, adesso io non so come siano andate le cose. Noi dobbiamo fare la sponda in questo senso, la sponda a lui come candidato e l'approdo a quelli che devono arrivare. E quindi il lavoro che noi dobbiamo fare qui, come comunicazione, secondo me non è il lavoro dei gruppi di programma. I gruppi di programma, anche io ho apprezzato che si sia incazzato Lucini sulla questione che il programma è una roba seria, i gruppi di programma secondo me devono fare il loro benedetto lavoro e noi dobbiamo lavorare, possiamo lavorare in autonomia su tutto il resto. Quindi se c'è un momento in cui l'iniziativa di Chissica è rimasta nel cassetto per due mesi, ha da essere attuata, è questo. E non è questo tipo di allargamento massimo possibile, possibilmente senza barriere di riferimento partitico, non può essere quello dei gruppi di lavoro. Quello dei gruppi di lavoro è di gente interessata, possibilmente con una qualche preparazione, ma io sono felice che sia aperto anche al libro del cittadino, che vuole, come dire, più che altro comprendere la difficoltà di produrre un programma, e io stesso mi vorrei porre in quel tipo di maniera. Mentre questo allargamento qui è per tutti, è quello che copre quell'area gigante che è quella a cui fa riferimento in realtà Chissi in questo volantino, che è quello degli indignati, dell'antipartitico, di quello che può scivolare al Movimento 5 Stelle, di quello che ce l'ha su con tutti e tanto non vota, eccetera, eccetera. No? Questa roba qui la dobbiamo andare a intercettare, è un lavoro gigantesco da fare, è un lavoro che non può fare PD. E quindi noi, secondo me, siamo un sacco di roba, un fare comune, sì, un fare comune di tutto quello che in fin dei conti poi non è PD. In questo senso qua, non apprezzo molto, anche se so che discutono la grandezza di questi dei ragionamenti, dei numeri, eccetera, eccetera, l'idea di avere tante liste anche qua a sinistra. No? Io capisco, al di là dell'orgoglio di difendere una presenza lunga nel tempo, no? Ma io ritengo che forse sarebbe stata una mossa, l'ho già passato perché so che queste cose sono già decise, sarebbe stata una mossa molto più interessante e apprezzo che qualcuno ancora la tenga in considerazione come parola, l'idea di avere un grande coalizionista di coalizione di sinistra che addirittura possa fare a meno della lista ridicola del sindaco che si presta soltanto a essere sfottuta, secondo me, in città, e che quindi in quel senso lì mettesse il candidato sindaco come elemento mediano tra il PD e il resto della coalizione, aprendo peraltro anche alle forze escluse come Rifondazione, aprendo, chiarendo una posizione più radicale di quella che il PD comasco particolarmente possa rappresentare. Cioè, mi spiace moltissimo che questa cosa qua non si riesca a fare. Come mi ha detto, non si è detto un po' come dicevo. No, io prima non ero entrato sulle liste, dopo così, ma perché voglio sentire gli altri sugli altri argomenti, ma sulla lista ne parliamo un po'. Una piccola integrazione, ti chiedo scusa un momento, sulla cosa che hai detto lei rispetto all'intervento che hai fatto tu sul tuo volantino, e poi c'entra anche in questo modo con quello che hai detto tu. Insomma, io la vedo così, perché hai nominato Alpinese, poi hai nominato qualcun altro. Se io sono un cittadino sprovveduto che non sa nulla, per quale motivo dovrei votare Lucini invece di Alpinese, invece della Mazzarati? Invece di lasciamo stare quello della Lega, che cosa vuole il PDL, quelli si connotano per essere Lega e PDL, ma mettiamo gli altri nomi. Allora, io credo che questo sia il tema invece sul quale vale la pena di spendersi adesso. Qual è il denominatore comune di questa coalizione? Cos'ha da dire al cittadino? Non credo che possiamo dare per scontato che l'essere in area di centro-sinistra oggi significa esattamente l'opera per tutti o per tutti esattamente la stessa cosa. Allora, quelli che sono dentro, prima o poi la scelta di questa espressione fare comune o di questo tipo, io l'ho sempre detto che secondo me era necessario comunque trovare alla coalizione un nome, può essere questo, può essere un altro, perché il messaggio da veicolare prima del programma e comunque insieme ai candidati ufficiali, perché io vorrei che fosse chiaro per tutti che in realtà quello che si vedrà sarà solo il candidato sindaco, cioè nel momento della campagna elettorale si vedrà il candidato sindaco, quasi tutto il resto sfumerà. E poi appunto il tema delle liste, o meglio del portare la gente a votare tutto quello che è intorno dentro quella lista, non è un problema affatto semplice. Ci sono persone egregie messe in lista che prendono 4 voti, ci sono persone assolutamente e terribilmente impietanti che messe in lista portano un pacco di voti. Ma non è una questione numerosa, è proprio un problema di persone che fanno e fanno un tipo di lavoro lì dove stanno, che ha un carattere tipo clientelare, cioè ci promettere la luna. La persona che ha avuto più voti è mandato alle elezioni recenti, è il famoso Gatti, il quale era famoso per addirittura partecipare ai funerali di questo tipo di persone che hanno dato voti. Qualcosa che dica il senso di questa cosa qui, ma non il senso che noi siamo capaci in qualche modo di trasmettere, ma lo dica fuori a quel tale che si ricorda che deve andare a votare una settimana prima, non avendo letto nulla o quasi nulla dei 100.000 documenti nostri, non avendo partecipato a nessuno degli incontri, avendo un'incazzatura al cubo per tutto quello che sta succedendo, avendo visto se va bene qualcosa in televisione 2 giorni prima. Questa cosa qui non ce la dobbiamo dimenticare. Perché la nostra capacità di dire adesso noi abbiamo tirato ai voti con tutte le energie che abbiamo posto in campo, se mettiamo i voti di Gisella e i voti miei, un numero infinitesimo di persone. Se non abbiamo toccato una serie enorme di persone che noi potevamo immaginare capaci di intercettare la nostra sensibilità, il nostro pensiero, questa cosa è di una fatica immensa. E non giocherei sull'ingenuità, come dire, di quello che sembra a noi, cioè noi dobbiamo essere capaci di comunicare la sostanza, ma questa la comunicare in maniera chiara e poi di mettere in campo delle strategie che funzionino anche rispetto all'attuazione del voto, perché appunto chi queste esperienze le ha vissute sa che non è una banalità, cioè come dire, anche i 1500 voti che ha preso Gisella o i 500. Diciamo pure 5.000 che avviene lo stesso, cioè questi stessi voti non sono garantiti per me né per te, ma assolutamente perché il tipo di visibilità che si è avuto in questo momento è completamente altro rispetto a quello che puoi avere rispetto alle elezioni normali di cittadini che conduci e dall'altra parte consolata con l'altra cosa, quindi ci sono dei meccanismi che vanno per quanto va fatto con del senso rispetto alla prospettiva, ma anche con il realismo rispetto al meccanismo che deve essere messo in campo, che è completamente altro. Facciamo un po' finire. Volevo sottolineare quello che considero importante a proposito delle primarie, che cioè, il gruppo fare comune non è limitato per la continuazione delle primarie, ma che deve avere un ruolo triplicamente più decisivo. Cioè il lavoro deve triplicare rispetto a quello che si è fatto prima, anche perché mi è venuto fuori in assemblea il cittadino, quello di cui parlavi prima tu, che rappresenta la stragrande maggioranza della città, deve avere, cioè che cosa può contraddistinguere Lucini rispetto agli altri? C'è qualcuno che si mette in ascolto. Nel senso, voi candidati avete il grande compito di continuare a lavorare, secondo me, sul programma, ma sollecitati principalmente da questo gruppo. Quindi si diceva prima, convocatevi, discutetevi proprio perché avete delle caratteristiche differenti innanzitutto, e si è capito, no? Cioè non è che ci sia una condivisione completa di tutto un programma, no? Quindi non è che ci si deve scontrare alla fine, ne vengano fuori subito le questioni, quelle veramente importanti. Però questo gruppo dovrebbe avere proprio la capacità di sollecitare che i candidati con i gruppi portino avanti questo lavoro, ma da parte sua si approcci molto di più al cittadino, quindi si lavori nei quartieri, si faccia qualcosa che faccia identificare una presenza reale di qualcuno che vuole fare qualcosa di diverso dal solito. Cioè, un modo per esempio potrebbe essere quello di fare una sorta di referendum con alternative rispetto ai problemi, come dire, di cosa fare chi è ufficioso da dare in piazza, in cui dici queste sono le tue possibilità, tu cittadino cosa preferiresti, e questo è un modo per coinvolgerlo concretamente e approcciarlo su delle questioni che sappiamo stanno fuori a tutti, su cui tutti parli. Io ieri sera ho partecipato alla presentazione di la presentazione del libro Tempi di lavoro, bellissimo. Bellissima idea, un buon lavoro fatto, vabbè, da Luca, soprattutto per quanto riguarda anche la parte fotografia. Cioè, queste cose sono di impatto sulle persone, no? Anche solo, non lo so, la reticosa spoglia, abbandonata così, no? Un bel giorno un gruppo va lì. Mette delle gigantografie, i lavoratori, no? La storia comasca, cioè una sua cultura, si vede qualcosa che lo fa riflettere, dire caspita, cioè il sindacato ha avuto una funzione determinante nel tessuto di anche della realtà comasca, no? Se i lavoratori di qualsiasi settore hanno acquisito dei diritti che adesso stanno rischiando di perdere, è perché c'è stato del lavoro dietro. Quindi il candidato sindaco dovrebbe dare anche l'immagine che è lì, che si interessa, e quindi con tutta la sua squadra, che si interessa a queste realtà, alla realtà di chi sta perdendo il posto di lavoro, alla realtà della famiglia che fatica ad arrivare alla fine del mese, cioè, però lo deve far sentire in un modo diverso, perché ci richiudiamo in una sala, ci incontriamo un bel gruppo che parla di cultura, che parla di urbanistica, che poi porta fuori un programma, ma che non capisce quasi nessuno, però ma tu nel frattempo non mi sei piaciuto, non mi hai comunicato niente. O non se ne è più. Perché comunque, cioè, il fare populismo, che probabilmente è una piaga indagante, ormai purtroppo, è il dire tanto non cambierà mai niente, è il dire questo qua mi sta dicendo le stesse cose che mi aveva detto il Bruni anni fa, tante belle promesse, però tanto non le manterrà. Quindi allora, io facevo un analisi dell'assemblea Fenici, dove per questo volantino l'avevamo già votato, secondo me è gestato, forse il lavoro che abbiamo fatto non è stato applicato il giorno dopo con una data stabilita, non so. E lì ci siamo persi tante persone perché la mail non è l'unico metodo usato per comunicare con le persone, quindi se a ogni fine assemblea almeno abbiamo già la data di quello dopo, è già un grande passo avanti. Se invece abbiamo la data che è il primo, secondo, il terzo del mese, ok, comunque di mantenerlo, e quello rendiamo pubblico, e questo volantino rimane messo magari in una maniera un po' diversa, rimane terrestre già fuori come data. Adesso dobbiamo uscire la funzione di questa assemblea. Va bene essere per una stipendia autoprovocati, come dicevamo definiti, che forse è ancora la cosa migliore, cioè chi vuole fare politica, partecipare alla crescita della città, partecipa. Non, deve, no, non è importante di che schieramento sia o di che è, però è importante che lui ci sia in prima persona. La funzione dei gruppi di lavoro, io faccio dire ma a quale gruppo di lavoro partecipo? Bisognerebbe trovare il raccordo che questi gruppi di lavoro a ogni assemblea hanno 10 minuti a testa e riassumono quello che hanno fatto negli incontri. Così pure se noi diciamo già adesso questo è un percorso che per noi andrà avanti per 5 anni. Allora, questa assemblea sarà sì importante, dove ci saranno questi gruppi di lavoro che magari si manterranno ancora o magari aumenteranno anche, e quindi quei 10 minuti sono importanti. Più dopo sarà importante i 10 minuti in cui ci sarà il consigliere comunale che ci dirà la sua posizione, l'altro consigliere, e l'assemblea che varia e dice va bene, quella posizione lì è maggioritaria, prendiamo quella posizione lì. Che non ci sia Lucini in questo momento, per chiarirci noi fosse stato meglio, perché magari con Mario non arrivavamo a questi risultati. Non penso più che sia meglio che facciamo qualche cosa. E però Lucini, ufficialmente se riusciamo ad un'assemblea, diciamo, Lucini... No, io l'avevo detto che non era un supporto, se riusciamo ad un'assemblea, anche se riusciamo ad un'assemblea, chiediamo che le persone per una lista devono essere, come avevamo detto, quell'assemblea, quello è il mandato che tu hai. Non puoi andare là e dire va bene, allora facciamo una mediazione. No, tu devi tornare sempre devi dare il mandato per quella mediazione. Non puoi condividere tutto, non è possibile. La democrazia è la democrazia. Vabbè, ma la democrazia è fatta di intelligenza e di mediazione, per cui se tu ti fidi delle persone. Però io preferisco. Marta, io preferisco avere su 10 persone, 20 persone su quel manifesto, 30 persone che erano dopo Cucini e 29 persone con le quali dovrei mediare, non con 2-3 persone che devono farsi il culo loro. Se c'ero dentro anch'io, c'eri dentro anche te, c'ero dentro qualcun altro, è vero che avevamo dissipato quel 50%? Dico, le persone per candidarsi alle primarie non abbiamo nessuna storia. Se quella storia è un passo, magari avevamo... No, un numero di firme. Ma perché secondo te c'è qualcuno che non si è candidato perché ce l'hanno troppe firme? Non lo so. Ma magari, magari uno che si sarebbe candidato. È stato più un messaggio simbolico. Ma lui magari si sarebbe candidato se non c'era soldi. Lui diceva io vado pronto. Chi? Ma volevo solo dire che spesso noi abbiamo visto bene che le si riesce a combinare nulla, per cui per esempio il candidato Lucini ha vinto le elezioni, per cui è giusto che in qualche modo condivida ma anche proponga il suo punto di vista, perché chiaramente se vinceva Gisella il suo punto di vista sarebbe stato vincente, se vinceva uno anche, per cui massima partecipazione, ma anche ma io questa non diventi poi la sottolineazione su tutto quello che farò, perché io non mi permetto di mettere i suoi video online, creare un canale con tutto quello che vi ho detto in questi 4-5 appuntamenti, che sarebbe una cosa importante già estrapolare, fare un canale di cucine su tutto quello che, se lui mi dice che va bene, non fa. Io ho molta fame, però questa cosa qua me la voglio dire, lei è stata sì, sì, lui mi vede per me, scusa, io ho tre che sono per dire. Non le 7, sono aggiunti 5 ore di ragazzini scatenati. Allora, la, secondo te il secondo me le due parole si coniugano bene, però si coniugano bene, fare e comprare. Però ragazzi, se non si parte da fare, quando si comprare? Io vedo drammaticamente la discussione di stasera come cioè, una cosa in cui probabilmente ci si sta un po' incartando. Allora, io come ho detto all'assemblea l'altra sera, secondo me i gruppi di lavoro li lascerei, secondo me hanno il loro significato perché l'ha espresso Lucini, a me non è piaciuto come li ha tirati fuori, come sono stati espressi eccetera. Io ho fatto quelle passate con tutti i gruppi eccetera, è stata una menata in onda dove tutti dicevano esattamente le stesse cose e che secondo me non potrà mai e poi mai essere riportata nei confronti della città. Cioè il programma non esiste, no, mi fuori veramente una porcata tipo quello di Prodi, l'enciclopedia Treccani che non poteva leggere nessuno. Io continuo a essere convinto che questa cosa qua, se Lucini, con tutto il rispetto per la sua idea, però se Lucini ritiene che serva a lui perché così almeno ha un plafond su cui dire da qua poggio i miei piedi e di qua sono sicuro che posso fare un certo lavoro, ok. Ad esempio una discussione che ho avuto con Lucini è stata sulla tangenziale, per dirla in modo chiaro, perché quando lui è andato ad Albate più o meno difendere la tangenziale, ne eravamo assolutamente in disaccordo, che è un problema serio dal punto di vista, ad esempio, urbanistico, perché non so se voi avete visto il progetto, è una cosa allucinante che nessuno riuscirà mai a fare, in compenso arriveranno tutti ad Albate, esatto, perché il primo tratto di tangenziale, ad esempio, questa cosa qua di sicuro è discussa con Lucini, perché poi devono scavare sotto il mondo, cioè è una cosa che costa, che penso della tavola. Però qualcuno deciderà se si dovrà fare o se dovrà fare, va bene. Però io non penso che riusciremo a, cioè secondo me se qualcuno pensa di prendere il programma e di trasferire il programma all'interno dei vari quartieri della discussione eccetera, è un pazzo, cioè non esiste, ma proprio per noi abbiamo tanti problemi, fra cui secondo me il primo è di convincere la gente ad andare a votare, che è già una cosa tosta secondo me. Adesso cominciamo a vedere cosa dobbiamo fare e che tipo di lavoro fa, non certo andando a proporgli il programma, cioè il problema è di proporre, tutto bisogna fare molto ascolto, cioè io più che decidere stasera molto velocemente come fare a riunirsi, dove riunirsi, io comincerei a mettere giù, ok, allora dal 9 gennaio siamo a Sannino, il 12 siamo qua, il 13 siamo là, cioè dobbiamo cominciare a uscire pubblicamente, perché cioè, noi in senso di coalizione, i vari gruppi eccetera, perché se questo fare qua non si coniuga con il comune, cioè noi non stiamo facendo né uno né l'altro. Allora dobbiamo uscire a fare le assemblee, andare a fare le assemblee. Secondo me se facciamo con le assemblee, c'è nella serie il motto Lucini ha bisogno di sapere. Dobbiamo uscire ragazzi, dobbiamo andare in giro a dire le idee, chi viene presentato, cosa deve fare, eccetera. Del programma, forse come intendiamo noi, forse o diciamo la stessa cosa o diciamo qualcosa completamente diverso. darli. Certo, io su quello sono d'accordo. Beh, fare il mio, strano, il mio problema, no, il mio problema è che cominciamo ad ascoltare, sì, perché se no, ragazzi, guardate che c'ha ragione Rosicchia, non è che a lui hanno chiesto gli spazi, cioè comincia la gente, immagino, delle altre liste a chiedere gli spazi. Cioè, se vai là stasera a vedere quelli per Como, quelli lì avevano il grafico su come fare a intercettare i voti della gente. Oh, cioè, mica sei lì che se la minano. Cioè, ragazzi. Ma più basta, però venerdì abbiamo proposto questa due modalità alternativa. Ma c'è fare comune. Fare comune è questa, ragazzi, vediamo. Il fare comune ha una sua autonomia, e non è che devo dire io cosa devi fare comune. Cioè, io sono detto, io dico la mia. Cioè, quello che dico io è che se il fare comune vuole essere una cosa, diciamo, che ha una certa anche autonomia rispetto al gruppo, eccetera, eccetera, ma che conferma l'idea comunque del candidato sindaco del centro-sinistra, eccetera, è ora, secondo me, di cominciare a andare ad ascoltare, cioè sentire. Poi dopo viene anche il problema di come comunicare, le idee, eccetera. Però la prima cosa che gli va detto, secondo me, è una cosa semplicissima. Cioè, c'è questo candidato, ci sono queste, non dico liste, comunque forze che appoggiano, c'è una voglia di cambiare, siamo contro questa cosa qua, le cinque cose su cui siamo contro, e siamo per le cinque cose per cui siamo a favore, punto. Intanto, ragazzi, cioè io insegno, venite in una qualsiasi scuola a vedere, i genitori sono un po' più di livello culturale superiore, anche se magari erano a quinta elementare, però anche loro stanno vivendo la situazione che hai descritto prima, lo scazzo, il fatto che i politici sono tutti così. Guardate, noi dobbiamo combattere contro l'idea che c'è la politica buona, e loro tutti pensano che non ci sia la politica buona, che comunque chi fa politica è fatto in un certo modo, che interessarsi di queste cose vuol dire, ah, tanto tu vieni qua solo a dirmi di votare il giorno in cui, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, guardate che dura convincere la gente. Cominciamo ad ascoltarla, a vedere i problemi che ci sono nei quartieri. Io ripeto, secondo me molti pochi sono andati a votare nei quartieri periferici, eh. Questo è molto grave. Molto grave. Comunque, secondo solo, l'idea di questo cosa di dovrebbe fare, insieme c'è un manifesto, cioè nella mia idea c'è il volantino che ti fa girare per email un manifesto, no, che non qua, ma che dobbiamo fare, è un manifesto da fare molte copie, poi vabbè, cioè, per far partire un meccanismo come quello che sta dicendo lui. Cioè non è il volantino. Se c'è poco tempo, ma fatto. Cioè, io dico che è sufficiente per, però non c'è tanto tempo, fate il conto che siamo già a gennaio. Cioè, o fai la campagna che la già fra gennaio e marzo, poi se ci sono le nazionali, per finire, l'unica cosa tra virgolette positiva. Scusate, l'unica cosa veramente positiva è che secondo me questi hanno fatto talmente tanti danni che pochi andranno a votare, questi qua di destra. Si presentano comunque divisi, perché la Lega è evidente che oramai per prendere voti se ne va per conto suo, il PDL non è più come prima perché ha perso dei pezzi anche verso il centro, eccetera. Le liste civiche che si presentano al di fuori di questo schema nostro potranno anche prendere il 3-4%, ma poi non contano niente. Cioè, perché se noi invece pigliamo il grosso, siamo noi che abbiamo la possibilità di andare al ballottaggio. Questi dovranno dire con chi accasarsi. Quindi noi dobbiamo andare al ballottaggio, e c'è il rischio di vincere, sì, dobbiamo rischio. Però c'è il rischio di vincere, potrebbero pensare che sia un rischio, però c'è il rischio di vincere. Cioè, quindi, ragazzi, cioè, dobbiamo fare in modo di arrivare ben preparati. E insomma, è tutto facile, però. No, non è facile. Sì, l'ultima parte è completamente da rifare. Cioè, no, nel senso che la domanda centrale è: ma che cosa ci garantisce che questo lavoro non verrà utilizzato solo per far vincere un candidato e sarà poi ignorato? Questa è una domanda chiave, ma anche rispetto all'ascolto. Cioè, la domanda a cui bisogna rispondere è esattamente questa: ma non quello che scrivi è nella sostanza condivisibile, ma ovviamente non è tutto incomprensibile al cittadino medio che è d'accordo con più. E però questa domanda è davvero quella che deve stare la risposta, non la domanda, sì, che deve essere la cosa che comunichi. E lì, secondo me, ci sta il massimo, tra virgolette, del pensiero, permettete questa parola, visto che non lo abbiamo mai, politico. Politico nel senso di quale identità, quale idea della relazione, quale, senza dover spiegare tutto quanto, ma quelle cose che sono state dette stasera in 100.000 maniere diverse, toccando 100.000 temi. Questa è la. No, io non sono un comunicatore dal punto di vista dei microfoni, dei messaggi, però lì bisogna assolutamente rompersi la testa e tirare fuori un messaggio che dia quella cosa lì, che dia quella risposta. Sì, però secondo me dobbiamo trovare un linguaggio che deve essere assolutamente diverso dal linguaggio conosciuto. Io ho proprio il tema. Poi sai cos'è? Io la prima volta di questo volantino lo faccio quando c'era ancora Berlusconi, quindi era molto più incisivo. Non c'era ancora il candidato sindaco, che se adesso c'è molti finisse la provocazione. No, la carta dei valori è quel degli accordi di che fuori bene. Si tratta di andare a fare un incontro per verificare che condizioni vengono poste al caso, però il problema politico secondo me è questo, che chi decide su un soltanto un messaggio. Ora per la intenzione di diventare con gli storie, no, nel senso c'è un giocato, c'è questo discorso che la coalizione deve avere un nome, questo per me rimane dal punto di vista simbolico. Noi avremo il nome di un cinque, invece sarebbe interessante il nome di una squadra. Avremo il nome di candidato sindaco, dopodiché nelle altre cose che stanno nascendo, mi pare, ci sarà un candidato sindaco e poi ci sarà una lista, come dire, che corrisponde a questo candidato sindaco. Comunque, l'identificazione prima è attraverso il nome di candidato sindaco. Però, siccome c'è qualcosa di più che va comunicato, perché quello che è successo nelle primarie, secondo me, questo è chiarissimo, è la prima primaria del PD. Questa è la grande semplificazione che è stata fatta e sarà fatta pari pari se non si fa un altro tipo di operazione. Per cui Lucini sarà il candidato del PD. Il messaggio sarà Lucini è il PD. Comunque sì, anche se ci fossero 7 liste diverse, sarà il PD. Questa cosa perché la comunicazione, quella che noi vogliamo fare, va bene. Poi c'è una comunicazione che fa qualcun altro. Sì, certo. E quello che fa qualcun altro, noi non la potremmo. Abbiamo già visto conclusione.